Di Laura Ingalls Wilder, I primi 4 anni, ottavo volume del ciclo La casa nella prateria, Gallucci Editore, traduzione di Paola Mazzarelli. Perché questo romanzo è diverso? Di Paola Mazzarelli. I primi 4 anni comincia dove abbiamo lasciato i nostri protagonisti in Gli anni d'oro. Laura e Almanzo, pieni di aspettative e di progetti per il futuro, cominciano la loro vita insieme. Siamo arrivate così all'ultimo dei romanzi autobiografici di Laura Ingalls. Chi legge nota subito che i primi 4 anni è più smilzo dei volumi precedenti. Quando comincia a leggere, scopre che le prime pagine ripetono, con piccole varianti, i fatti descritti alla fine di Gli anni d'oro, cioè le vicende del matrimonio di Laura e Almanzo e la descrizione della casa sulla concessione a Bosco di Almanzo dove la coppia va ad abitare. Si aggiunge la sorpresa di scoprire che Almanzo, che con questo esotico nome abbiamo imparato a conoscere e amare, qui viene chiamato con il diminutivo affettuoso e probabilmente reale di Manly. Ma siccome non ne siamo avvertite, lì per lì ci sorprendiamo a chiederci: ma chi è costui? Quello che però colpisce di più, proprio nelle prime pagine e poi via via in tutto il libro, è l'atmosfera diversa che si percepisce rispetto ai volumi precedenti. È curioso, per esempio, che Laura esprima una decisa avversione a diventare moglie di un agricoltore, quale è e vuole essere Almanzo, quando di questa avversione non si fa il minimo cenno in Gli anni d'oro, che pure racconta la storia del corteggiamento. Ma Laura qui è un personaggio un po' diverso da quello che conosciamo. La ragazza riflessiva, appassionata, generosa e ottimista, che nessuna difficoltà sembrava in grado di piegare, è diventata una giovane donna che rischia di soccombere alle avversità, a tratti insofferente ed esasperata, tanto che a un certo punto dichiara di odiare la vita che conduce. Il che è comprensibile se consideriamo che questo è il volume più autobiografico e meno romanzato di tutti. E il fatto che il libro si chiuda con una nota positiva di ottimismo e fiducia negli ideali dei pionieri non cancella le ombre che la lettrice avverte tra le righe. In queste ombre c'è qualcosa di più realistico e plausibile di tutto quello che abbiamo letto nei volumi precedenti. Si ha l'impressione che questa sia la storia vera. Anche Almanzo appare un po' cambiato. L'abbiamo conosciuto nelle vesti di un giovane eroe, sagace, accorto, affidabile, capace di compiere imprese mirabolanti come la famosa corsa contro il tempo e il maltempo per rifornire di frumento la popolazione affamata di Desmet. E troviamo un uomo altrettanto ostinato e caparbio, ma assai meno accorto, a tratti anche ingenuo nel suo inguaribile ottimismo e nella leggerezza con cui si espone ai colpi innegabilmente feroci della sfortuna. Di nuovo, una figura meno eroica, meno idealizzata, ma forse più reale. Intorno ai due protagonisti e alla storia della loro battaglia contro la sorte avversa che li perseguita c'è il vuoto. Sono sparite o ridotte al ruolo di comparsa tutte le figure che davano varietà al racconto nei volumi precedenti: familiari di Laura, vicini, amici, altri abitanti della cittadina, bottegai, maestri, compagni di scuola. È scomparsa anche la cittadina, con la sua crescita tumultuosa e avventurosa, qui ridotta a un luogo fuori campo. Ed è scomparsa perfino la prateria, così amorosamente e appassionatamente descritta nei volumi precedenti, che qui esiste solo come fondale da cui emergono eventi catastrofici. Mancano anche gli elementi di contorno che facevano di questa serie una piccola epopea del West. La costruzione della ferrovia con i cantieri e la vita degli operai, le storie della frontiera, storie di cercatori d'oro, di lotte con gli indiani, di continui spostamenti a ovest, di interventi dell'esercito. Le istituzioni con cui l'West veniva dandosi coscienza e organizzazione di Stato, scuole, chiese, feste patriottiche. Tutto questo negli altri volumi c'era a dare spessore alla storia, qui invece non c'è. Perché? Che cosa è successo? Beh, I primi 4 anni è in realtà un'opera postuma. Alla morte di Laura Ingalls, il manoscritto fu trovato tra le sue carte dalla figlia Rose, e alla morte di Rose passò al suo erede ed esecutore testamentario Roger Lee McBride, il quale lo dette alle stampe anni dopo, nel 1971, senza apportare modifiche al testo. Non c'è dubbio che si tratta di un'opera incompiuta, o meglio, di un abbozzo, una sorta di brogliaccio che Laura scrisse forse negli anni 40, probabilmente con l'intenzione di fermare sulla carta i fatti salienti dei suoi primi 4 anni di matrimonio, per poi trarne un volume sul modello dei precedenti. Perché in seguito non l'abbia fatto non è chiaro. È stato ipotizzato che con la morte di Almanzo nel 1949 avesse perso interesse al progetto. Fatto sta che il manoscritto rimase nel cassetto. È proprio questo che lo rende interessante. Intanto perché ci offre l'occasione di sbirciare, come da dietro le spalle, la nostra autrice all'opera. Sta mettendo insieme i fatti che vuole raccontare, senza preoccuparsi troppo di vestirli con la scrittura. Il libro è semplice, quasi un po' grezzo nella forma. Per ora le importa buttare giù una traccia. Questo spiega l'essenzialità della narrazione, la scarsità, o meglio la scelta dei dettagli. Quanti conti, per esempio, in queste poche pagine, spese, debiti da pagare, cambiali. La mancanza degli elementi di contorno. Ed è per questo che Laura, poco sicura se traspaiono anche l'insofferenza, il disagio o la disperazione. È possibile inoltre, come è stato sostenuto, che questo libro nelle intenzioni dovesse diventare altro, forse un libro per adulti. Si tratta in ogni caso di ipotesi che lasciano il tempo che trovano. Quello che abbiamo è tutto qui, una sorta di grado zero, l'alba di un romanzo della nostra serie. Tanto più interessante perché ci dà una misura di realismo che manca negli altri volumi più elaborati. Ecco com'era davvero. Ci viene da pensare la vita dei coloni americani di fine Ottocento. La cosa più appassionante però è che l'essenzialità e semplicità di questo libro, il suo evidente carattere di incompiutezza, gettano luce, per così dire a ritroso, su tutti i volumi precedenti. È nella differenza tra questo, così scarno ma dal sapore molto più realistico, e gli altri, più compiuti, più costruiti, ma molto più mitici, tra virgolette, che si chiarisce il senso e l'intenzione dell'intera serie. Poco importa sapere se la costruzione della serie, come la leggiamo, sia stata solo opera di Laura Ingalls o se, e in qualche misura, altri vi abbiano messo mano, la figlia Rose, a sua volta scrittrice, gli editor della casa editrice o altre persone ancora. A noi lettrici importano i libri come ci arrivano tra le mani, ed è evidente, anche proprio per il contrasto con questo ultimo volume, che la serie fu pensata per descrivere alle ragazze e ai ragazzi l'epopea della frontiera. La seconda frontiera, quella dei coloni che, affiancati e sostenuti dalla costruzione delle ferrovie transcontinentali e attirati da un accorto programma di distribuzione delle terre, andavano spostandosi via via verso ovest, trasformando la terra vergine delle praterie centrali, qui siamo nel Sud Dakota, nel granaio d'America. Si tratta di una descrizione mitizzata, idealistica, chiaramente intesa a far sì che le vicende biografiche della famiglia Ingalls diventino simboliche di un'intera generazione, di un'epoca, di un momento della costruzione del mito americano. La serie fu scritta tra gli anni 30 e l'inizio degli anni 40, cioè circa 50 anni dopo i fatti che narra. Quella frontiera non esiste più. Le ferrovie sono da tempo e con vari itinerari arrivate al Pacifico, l'America è diventata una potenza giovane che ha bisogno di crearsi dei miti fondanti. La letteratura serve anche a questo. Ecco, questa è la vera differenza tra quest'ultimo libro e i precedenti. Quello che c'è in più negli altri volumi rispetto a questo è la scrittura, il fare di una storia, interessante ma pur sempre individuale, un'opera letteraria. Che in quanto tale sopravvive all'epoca e alle situazioni da cui scaturisce. Prologo. Le stelle scintillavano sulla prateria, luminose e vicine. Il tenue chiarore faceva risaltare le creste dei dossi ondulati che si stendevano a perdita d'occhio, ma riempiva d'ombre gli avvallamenti e le conche. Un calesse, trainato da una pariglia di agili bai, correva sulla traccia chiara della strada, che si distingueva appena in mezzo all'erba alta. Aveva il tettuccio abbassato e alla luce delle stelle la macchia scura del conducente e la figura vestita di bianco che gli sedeva accanto si riflettevano nell'acqua argentata del Silver Lake che lambiva pigramente le basse sponde erbose. L'aria era piena del dolce profumo delle rose selvatiche che crescevano rigogliose ai bordi della carreccia. Una limpida voce di contralto si levò sommessa sopra il leggero scalpiccio degli zoccoli e parve che le stelle e l'acqua del lago e le rose stessero in ascolto, tanto quieta era la notte. Tutta è stellata la volta del cielo, lieta è la notte al nostro cuore, solo si ode cantar l'usignolo alla rosa e il suo canto d'amore. In questa notte silente d'estate, or che la brezza comincia a giocare, dal lontano palpitare delle stelle, tu e io ci sentiamo chiamare. Scendiamo insieme, laddove l'onda mite si frange sulla riva del mare, che per noi è stellata la notte, perché la strada possiamo trovare. Così cantava la voce perché era giugno e per tutta la prateria fiorivano le rose e il cuore innamorato godeva di quelle notti limpide e silenti quando al tramonto taceva anche il vento. Il primo anno. Era un torrido pomeriggio d'estate e il vento soffiava impetuoso da sud. Ma là, nelle praterie del Dakota, nel 1885, nessuno badava al caldo né al vento. Erano fenomeni naturali e facevano parte della vita. Quel giorno, lunedì, alle 4 in punto, una pariglia di bike che trainava uno scintillante calesse nero svoltò di buon trotto da Main Street all'angolo della scuderia di Pearson, imboccando la carreccia che usciva nella campagna. A mezzo miglio di distanza, da una delle finestre della baracchetta di tre stanze che sorgeva sulla concessione di suo padre, Laura li vide arrivare. Stava imbastendo la fodera di batista sui pezzi del corpetto del suo nuovo abito di cashmere nero ed ebbe giusto il tempo di posare il lavoro e mettersi la cuffia e prendere i guanti, che i cavalli si fermarono davanti alla porta. Era graziosa Laura, lì sulla soglia di quella grezza casettina, con l'erba brunita di agosto sotto i piedi e la fila di giovani pioppi tutta attorno al quadrato del cortile. L'abito di cotonina rosa a fiorellini celesti le arrivava ai piedi, la gonna era ampia, arricciata in vita, e il corpino aderente, a maniche lunghe e colletto alto, era ornato da un giro di merletto attorno allo scollo. La cuffia di paglia intrecciata, color verde salvia, foderata di seta celeste, le incorniciava le guance rosate e i grandi occhi azzurri sopra la frangia di capelli castani. Manly non disse nulla, ma si limitò a porgerle la mano per aiutarla a salire e rimboccò bene il telone a protezione dalla polvere. Poi, dette di redini, e i cavalli filarono via. Era inusuale che andassero a fare una gita in calesse il pomeriggio di un giorno lavorativo. Scesero a sud, 12 miglia fino ai laghi Harry e Thompson, poi imboccarono la sottile striscia di terra che separava i due specchi d'acqua dove crescevano l'aronia e la vite selvatica. Di là continuarono per la prateria, prima a est e poi piegando verso nord fino a Spirit Lake, a 15 miglia di distanza. 40 o 50 miglia in tutto, ma facendo un quadrato per ritrovarsi infine a casa. Avevano alzato il tettuccio per avere un po' di ombra a difesa dalla calura. La criniera e la coda dei cavalli sbattevano nel vento e davanti a loro le protie tetraoni della prateria schizzavano a nascondersi in mezzo all'erba alta. I citelli si infilavano nelle tane sottoterra e sopra di loro, da un lago all'altro, volavano stormi di anitre selvatiche. Dopo un lungo silenzio, Manly disse: «Non potremmo sposarci subito. Se sei d'accordo o non vuoi un matrimonio in grande, perché aspettare? L'inverno scorso, quando sono stato dai miei in Minnesota, mia sorella ha cominciato a parlare di un gran matrimonio in chiesa. Io le ho detto che non vogliamo niente del genere e che se lo togliesse dalla testa, ma non mi dà retta. Ha deciso di venire qua giù con mia madre per organizzare la cerimonia». Ma è quasi tempo del raccolto, avrò molto lavoro e vorrei che a quel punto fossimo già sistemati in casa nostra. Laura fece girare l'anello d'oro con un granato incastonato tra due perle che le scintillava all'indice della mano sinistra. Era graziosa e lei era contenta di portarlo, ma ci ho pensato, disse. Non voglio sposare un agricoltore, l'ho sempre detto. Vorrei tanto che tu avessi un altro lavoro. Il paese cresce in fretta, ci sono tante occasioni. Ci fu di nuovo un lungo silenzio. Poi Manly disse: Perché non vuoi sposare un agricoltore? Perché è duro per una donna vivere in campagna, rispose Laura. Deve tenere la casa, aiutare nei campi e cucinare per i trebbiatori. E poi l'agricoltore non ha mai un soldo. Non riesce a mettere da parte niente perché quelli che stanno in paese stabiliscono loro a quanto comprare quello che lui ha da vendere e poi stabiliscono anche a quanto vendere quello che lui ha bisogno di comprare e non è giusto. Melly scoppiò a ridere. Beh, come diceva quell'irlandese, tutto va sempre in pari a questo mondo. I ricchi hanno il ghiaccio d'estate e i poveri d'inverno. Ma Laura non era in vena di battute. Non voglio essere sempre povera e sfiancarmi di lavoro mentre quelli che stanno in paese se la prendono comoda e si arricchiscono a nostre spese. No, ti sbagli, disse Manly tornando serio. Gli agricoltori sono gli unici davvero indipendenti. Quanto camperebbero mercanti e bottegai se non ci fossero gli agricoltori a commerciare con loro? I mercanti fanno a gara per ingraziarseli e se vogliono guadagnare devono farsi concorrenza l'un l'altro. Un agricoltore invece, se vuole un po' di margine in più, non ha che da seminare un altro pezzo di terra. Ho 50 acri di frumento quest'anno. Per me solo bastano, ma se vieni a vivere con me, quest'autunno ne dissodo altri 50 e a primavera semino. E poi posso ampliare il campo ad avena e allevare i cavalli. È una cosa che rende. Bah, in campagna tutto dipende da quanto sei disposto a darti da fare. Se ci dai dentro e la terra la tieni bene, puoi guadagnare più di quelli che stanno in paese e resti sempre padrone di te stesso. Seguì un altro silenzio alquanto scettico da parte di Laura. Alla fine Melly disse: Dammi 3 anni di tempo. Se in capo a 3 anni non ce l'ho fatta, lascio perdere e mi metto a fare quello che vuoi. Te lo prometto. Fra 3 anni vediamo come va e mi dirai se ti sta bene continuare quella vita o no. Laura accettò. Le piaceva avere a che fare con i cavalli e amava la libertà e la vastità della prateria, dove il vento stormiva perennemente tra le alte frasche degli acquitrini e bisbigliava tra l'erba corta e fitta che chiamavano erba dei bisonti, quell'erba così verde sui dossi in primavera, così grigio argento e brunita in estate. Tutto là era fresco e profumato. A inizio primavera, nelle conche, tra i dossi, cresceva un tappeto di viole e in giugno fiorivano ovunque le rose selvatiche. Due lotti di quella bella terra fertile, da 160 acri ciascuno, erano di loro proprietà perché Manly aveva già riscattato la sua concessione e in più aveva un lotto a bosco dove aveva già piantato i 10 acri necessari a riscattarlo. C'erano 3.405 alberelli laggiù, disposti in filari, a distanza di 8 passi l'uno dall'altro. Si trattava solo di farli crescere e in pochi anni anche quella terra sarebbe diventata sua. Tra le due proprietà si stendeva un lotto destinato a una scuola dove chiunque poteva fare il fieno. Chi prima arrivava, primo pigliava. E poi, certo, vivere in campagna era meglio che vivere in paese, dove avevi sempre i vicini tra i piedi. C'era solo da sperare che Melly avesse ragione. Comunque, beh, aveva promesso, avrebbero fatto 3 anni di prova. La casa sul lotto a bosco sarà finita tra un paio di settimane, stava dicendo Melly. Sposiamoci la settimana prossima, cioè l'ultima di agosto, giusto in tempo prima della mietitura. Andiamo dal reverendo Brown e poi direttamente a casa nostra. Laura obiettò che l'ultimo mese del suo lavoro di maestra non le sarebbe stato pagato fino a ottobre e che aveva bisogno di quei soldi per gli abiti. Perché? Non vanno quelli che hai? Chiese Melly. Stai così bene con quello che indossi? E se ci sposiamo senza tante cerimonie non hai bisogno di abiti speciali. Se rimandiamo, arriveranno dall'est mia madre e le ragazze, allora sì, ci toccherà una gran cerimonia in chiesa secondo tutte le regole, ma io non me la posso permettere e a te non basterebbe comunque quel mese di paga. Quella era una cosa che Laura non aveva previsto. Là sulla frontiera i parenti rimasti all'est non sembravano mai molto reali e nessuno li prendeva in considerazione quando faceva progetti. Ma ora pensò con qualche preoccupazione che la famiglia di Melly nel Minnesota orientale era benestante e che una delle sue sorelle aveva una concessione da qualche parte lì intorno. Se avessero saputo quando era il matrimonio sarebbero venuti senz'altro, tant'è vero che la madre di Melly si era informata della data nell'ultima lettera. Chiedere soldi a casa per sposarsi era fuori questione. Papà ne aveva già abbastanza di mantenere il resto della famiglia, in attesa che cominciassero a rendere davvero i suoi 160 acri di terra in gran parte vergine. Non ci si poteva aspettare granché dal raccolto del primo anno e quei campi erano stati dissodati solo di recente. Non c'erano alternative. Conveniva sposarsi subito perché per Melly sarebbe stato un vantaggio avere una casa e chi la tenesse in ordine ora che si avvicinava il gran lavoro dell'autunno. Sua madre avrebbe capito e non si sarebbe offesa, e anche i vicini e amici l'avrebbero trovata la soluzione più ragionevole, perché anche loro facevano la stessa vita dura per trarre di che campare da quella terra ancora tanto selvaggia. Così, il giovedì successivo, 25 agosto, alle 10 del mattino, i due bai svoltarono l'angolo della scuderia di Pearson, percorsero di buon trotto quel mezzo miglio di strada e si fermarono davanti alla porta della casetta in mezzo al quadrato di giovani pioppi. Laura aspettava sulla soglia con mamma e papà accanto e le sue due sorelle dietro. Tutti fecero a gara allegramente per aiutarla a salire sul calesse. Per l'occasione indossava l'abito nuovo di cashmere nero, che si era fatta pensando che le sarebbe tornato utile, perché si sa, una signora sposata deve possedere un abito nero. Gli altri vestiti e qualche oggetto che le era caro stavano nel baule che la aspettava nella nuova casa. Melly l'aveva appena finita. Voltandosi indietro, mentre il calesse partiva, vide mamma e papà, Carrie e Grace, che salutavano e mandavano baci dalla soglia. Le foglie lucenti dei pioppi stormivano alla brezza del mattino e a Laura venne un groppo in gola perché le parve che le dicessero addio. Voltandosi brevemente indietro, vide mamma passarsi rapida il dorso della mano sugli occhi. Melly capì, le prese la mano e gliela strinse con forza. Il reverendo Brown abitava nella sua concessione, un paio di miglia più in là, e a Laura parve il viaggio più lungo che avesse mai fatto. E tuttavia, finì troppo presto. Li fecero accomodare in salotto e la cerimonia si svolse in un attimo. Il reverendo arrivò di corsa, infilandosi la giacca. Sua moglie e sua figlia Aida, l'amica più cara di Laura, insieme al fidanzato, fecero da testimoni. Erano le uniche persone presenti. E fu così che Laura e Melly divennero marito e moglie, nella buona e nella cattiva sorte, nella ricchezza e nella povertà. Poi tornarono a casa di Laura dove li aspettavano per pranzo e dopodiché, tra auguri e saluti e allegri commenti, risalirono sul calesse e partirono per la loro nuova casa che si trovava al di là del paese. Era cominciato il primo anno. Soffiava una brezza leggera quel primo mattino e un fiotto di sole entrava dalla finestra orientata a est. Era presto, ma loro avevano fatto colazione ancora prima, perché Melly era atteso dai Webb per l'attrebbiatura e non voleva farsi aspettare. Ci sarebbero stati tutti i vicini. Webb li avrebbe ricambiati con una giornata di lavoro quando avessero battuto il grano da loro e nessuno poteva permettersi di arrivare in ritardo e rallentare il lavoro. Perciò quella loro prima colazione nella casa nuova la fecero in fretta e furia. Poi Melly attaccò la pariglia di bai al carro e scappò via di corsa. Laura sarebbe rimasta sola tutto il giorno. L'aspettava una giornata di lavoro intenso, c'era tutta la casa da mettere in ordine. Ma prima di cominciare si guardò attorno, soddisfatta e orgogliosa della sua nuova casa. La stanza principale fungeva da cucina, salotto e sala da pranzo insieme, ma era così ben proporzionata e arredata in modo così funzionale che serviva magnificamente allo scopo. La porta d'ingresso nell'angolo a nord-est si apriva sul tratturo a ferro di cavallo che dava accesso alla proprietà. Vicino alla porta c'era la finestra orientata a est, da cui ora entrava il sole del mattino. Al centro della parete, rivolta a sud, si apriva un'altra grande finestra. Contro l'altra parete, quella a ovest, c'era un tavolo pieghevole con un lato aperto e due sedie di qua e di là. Sopra era stesa la vivace tovaglia a quadri bianchi e rossi di mamma con i resti della colazione. Accanto al tavolo si apriva la porta che dava nel ripostiglio dove c'erano la cucina economica che Almanzo aveva portato dalla sua vecchia casa e pentole e padelle appese al muro. Il ripostiglio aveva una finestra e una porta che dava a sud. Ad angolo retto, rispetto alla porta del ripostiglio, c'era l'accesso alla dispensa. E che dispensa! Laura ne fu così entusiasta che restò lì sulla soglia per qualche minuto ad ammirare tutti i particolari. Era una stanzina stretta e lunga, con una grande finestra che occupava tutta la parete di fondo. Fuori si vedeva un giovane pioppo con tutte le sue foglioline verdi che stormivano alla brezza del mattino. Sotto la finestra, all'altezza giusta per starci davanti in piedi, c'era uno spazioso piano di lavoro. Lungo la parete di destra correva per tutta la lunghezza una fascia di legno in cui erano piantati chiodi per appendere padelle, strofinacci, colini e altri utensili di cucina. La parete di sinistra invece era tutta un magnifico armadio. Melli aveva scovato un falegname di quelli di una volta, che era vecchio e lento, ma lavorava a meraviglia. Quella dispensa era tutto il suo orgoglio, era un omaggio affettuoso a Melli. La parete era rivestita di scaffali da cima a fondo, il più alto arrivava appena sotto il soffitto e lo spazio tra l'uno e l'altro aumentava via via che si scendeva verso il pavimento, finché sull'ultimo ci stavano comodamente grosse brocche e piatti impilati. Nello spazio sottostante c'era una fila di cassetti così perfetti di misure e così ben rifiniti che parevano usciti da un negozio di mobili. Ce n'era uno grande abbastanza da metterci il pane appena sfornato, in un altro c'era già un sacco di farina bianca, un terzo, più piccolo, conteneva farina integrale e un quarto farina di mais. Poi ce n'era uno meno profondo per metterci i pacchetti piccoli e infine due cassettini già pieni di zucchero bianco e di zucchero di canna. Nell'ultimo stavano i cucchiai, le forchette e i coltelli d'argento che costituivano il dono di nozze di Melli. Laura ne andava fierissima. Sotto i cassetti restava ancora lo spazio per i vasi di ceramica dove conservare biscotti e ciambelle e per quello del lardo. C'era anche una zangola di pietra col suo pestello. Era un po' grande, dato che per il momento l'unica vacca che avevano era quella color nocciola che le aveva dato papà in dono. Ma avrebbero avuto tanta altra panna quando fosse stata ingravidata anche la manza di Melli. In mezzo al pavimento della dispensa si apriva la botola della cantina. La camera da letto era a destra della porta d'ingresso. In alto, lungo la parete in fondo al letto, correva uno scaffale per posare i cappelli. Dal bordo una tenda scendeva fino al pavimento. Dietro, sulla parete, erano fissati i ganci per appendere gli abiti e in terra c'era addirittura un tappeto. Nel soggiorno e nella dispensa il pavimento di pino era dipinto di un bel giallo vivo. Le pareti erano tutte intonacate di bianco e travi e montanti, anch'essi di pino, erano lisci come seta, oliati e verniciati del loro colore naturale. Una casetta tutta nuova e lustra per lei e per Melli. Sì, pensò Laura, quella era casa loro. Era stata costruita sul lotto destinato a bosco, dove col tempo sarebbero cresciute file di alberi. Ma loro la vedevano già ombreggiata dai pioppi, dagli olmi e dagli aceri che erano stati piantati lungo il semicerchio della strada di accesso. C'erano alberelli tutt'attorno alla casa e anche dietro. Oh, sicuro, se li curavano bene, in breve quei virgulti sarebbero diventati abbastanza grandi da proteggere la loro casetta e difenderla dalla calura dell'estate e dal gelo dell'inverno e dai venti che soffiavano sempre tanto impetuosi sulla prateria. Ma non era il momento di stare lì sulla soglia della dispensa a guardare le foglie tremule dei pioppi e a sognare a occhi aperti. C'erano tante cose da fare. Laura sparecchiò rapidamente il tavolo della colazione e mise ogni cosa al suo posto sugli scaffali. Piatti e tazze da lavare finirono nella tinozza sul piano di lavoro. Il bollitore con l'acqua calda era a portata di mano sulla stufa. Quando ebbe finito di rigovernare, la dispensa era in perfetto ordine. Poi lucidò la stufa con un panno di flanella, spazzò per terra, chiuse il tavolo e ci stese sopra un copritavolo rosso con un bel bordo ricamato. Stava benissimo, ed ecco che la stanza era diventata un soggiorno da fare invidia a chiunque. Nell'angolo tra la finestra orientata a est e quella a sud c'era un tavolino con una poltroncina di qua e una piccola sedia a dondolo di là. Di sopra pendeva dal soffitto una lampada di vetro a gocce. Quella era la parte che fungeva da salotto e quando sul tavolino avessero fatto bella mostra di sé i suoi libri di Scott e le poesie di Tennyson, sarebbe stata perfetta. Per rendere la stanza ancora più accogliente, Laura decise che avrebbe messo anche qualche latta di gerani sul davanzale. Prima di tutto, però, c'erano da lavare i vetri, che erano ancora schizzati di calce e di vernice dai lavori di costruzione. Oh, quello era proprio un lavoro che detestava. In quel momento sentì grattare sulla zanzariera. Era Hattie, la ragazza della fattoria accanto. Passando di là, Melly si era fermato a chiedere che la mandassero a casa sua a dare una mano, se per qualche ora potevano fare a meno di lei. Così Hattie cominciò a lavare i vetri, mentre Laura metteva in ordine la camera da letto e svuotava il baule. La cuffia era già al suo posto sullo scaffale e l'abito di cashmere con cui si era sposata era appeso a un gancio dietro la tenda. Aveva pochi altri vestiti da appendere, quello di seta color nocciola a righe nere e il popelin marrone che si era confezionata lei stessa. Li aveva già portati parecchio, ma erano ancora buoni. E poi c'era quello di cotonina rosa a fiori azzurri. Avrebbe potuto indossarlo forse ancora un paio di volte prima che finisse l'estate. E infine, aveva l'abito di calicò grigio da lavoro che faceva il paio con quello azzurro che si era messa quel mattino. Il cappotto dell'inverno precedente faceva la sua figura appeso accanto al giaccone di Melly. Per quell'inverno se lo sarebbe fatto bastare, non voleva diventare una fonte di spese per Melly già dall'inizio, voleva anzi assecondarlo nella sua convinzione che l'agricoltura poteva rendere come qualsiasi altra attività. Era così carina quella loro casetta, infinitamente meglio che vivere in paese. C'era solo da sperare che Melly avesse ragione. Sorrise, ripetendo tra sé a mezza voce: tutto va in pari a questo mondo. Quella sera Melly tornò tardi perché quando si trebbiava si andava avanti finché c'era luce. Quando rientrò, dopo aver accudito le bestie nella stalla, la cena era pronta in tavola. Mentre mangiavano, lui disse che l'indomani avrebbero trebbiato lì da loro e che a pranzo doveva preparare per tutti. Era la prima volta che pranzavano a casa loro e le toccava mettere a tavola tanta gente. Per farle coraggio, Melly disse: te la caverai benissimo e poi non è mai troppo tardi per imparare. Laura veniva da una famiglia di pionieri più che di agricoltori, gente che tendeva a spostarsi sempre altrove prima di radicarsi da qualche parte e non era abituata ad avere tante persone per casa. Il pensiero di doversi arrangiare da sola a preparare un pranzo per tanta gente la sgomentava. Ma se sei la moglie di un agricoltore, cose del genere fanno parte della vita quotidiana. Così, l'indomani mattina di buon'ora, cominciò a darsi da fare. Aveva portato da casa un'infornata di pane già cotto. Se ci aggiungeva un pane di mais da servire caldo, ce ne sarebbe stato più che a sufficienza. Carne di maiale e patate non mancavano e la sera prima aveva messo in ammollo un po' di fagiolini tondi. Quanto al dolce, il rabarbaro nell'orto poteva bastare per un paio di torte. La mattina passò in un baleno. Ma quando arrivarono i trebbiatori, il pranzo era pronto. Aveva spostato il tavolo al centro della stanza, con i due lati alzati perché ci fosse più posto, ma anche così alcuni degli uomini dovettero aspettare in piedi il secondo turno. Avevano tutti una gran fame, ma da mangiare ce n'era in abbondanza, anche se qualcosa era andato storto con i fagioli. Senza l'occhio vigile di mamma, Laura non li aveva cotti abbastanza a lungo ed erano rimasti duri. Quando poi si giunse al dolce, beh, il primo ad assaggiarlo fu il signor Perry, un vicino del padre di Laura. Dopo il primo boccone, sollevò la copertura di pasta e allungandosi a prendere la zuccheriera, aggiunse un bel po' di zucchero a ripieno. È così che mi piace, disse. Se non c'è zucchero nell'impasto, ognuno può mettercene quanto vuole, senza offesa per la cuoca. Il signor Perry aveva fatto ridere tutta la tavolata, raccontando di quando era bambino in Pennsylvania. Sua madre faceva la minestra di fagioli con 5 fagioli di numero e un pentolone d'acqua così grande e profondo che quando tutti avevano mangiato pane inzuppato nel brodo a volontà, se qualcuno voleva pescar fuori un fagiolo doveva tirarsi sulla manica della giacca. Erano stati tutti molto simpatici e allegri, ma Laura era rimasta mortificata per i fagioli crudi e la torta senza zucchero. È vero che aveva fatto tutto di corsa, ma dimenticarsi lo zucchero, come aveva potuto essere tanto sbadata? Povero signor Perry, il rabarbaro è così amaro che mandar giù quel primo boccone doveva essere stato tremendo.